principale difetto dell'uomo è che gli fa piacere tutto quello che torna a suo danno. I bambini stanno bene a scuola, i ladri in carcere e le donne in casa. Vi sono tre specie di uomini superiori: coloro che sanno, coloro che sono indifferenti alle cose del mondo, coloro che il mondo lo governano. Quando sono corrotti i governanti, vanno male le cose del mondo. Quando si corrompono coloro che sanno, si perde l'osservanza della legge, e quando si corrompono gli indifferenti alle cose del mondo, è finita la morale. Chi si limita alla teologia senza indifferenza alle cose del mondo e senza studi giuridici diventa ateo. Chi si ferma all'indifferenza delle cose del mondo senza studi teologici e giuridici diventa eretico. Chi studia diritto senza gli altri due cade nella corruzione. Solo chi li riunisce tutti e tre si salva. Non frapporre tra te e Allah l'Altissimo nemmeno lo spessore di una camicia. Da considerarsi veramente pazzo è colui che camminando non loda il Signore a ogni passo che muove. La fiducia in Allah è guardare sempre a Lui senza battere ciglio, invocarlo senza muovere la lingua e andare vagando in mezzo alle sue opere con lo spirito sempre intento a Lui. Chi non sa servirsi della propria intelligenza per sorvegliarla nell'interesse della sua stessa intelligenza, quella intelligenza lo manderà in perdizione. La nobiltà dell'animo consiste nel pensare di non avere mai fatto troppo per amore di Allah l'Altissimo. La purezza rituale che si ottiene con le abluzioni appartiene all'anima e il rito dell'adorazione appartiene al cuore. Quando ti lavi il viso, ti distogli dal mondo. Quando ti lavi le mani, ti difendi dalle creature a destra e a sinistra. Passando la mano bagnata sulla testa, ti liberi da te stesso, e quando apriamo il rito con la formula Allahu Akbar, esci da tutto quello che è tuo per metterti in grado di conversare con il tuo Signore. Un uomo che viaggiava nel deserto, giunto a un'oasi, andò alla sorgente per attingervi dell'acqua. Ivi giunto, trovò una ragazza splendida come la luna piena. Le disse: «Mi sono perdutamente innamorato di te appena ti ho vista». E lei: «Accanto alla sorgente c'è un'altra donna tanto bella che io non son degna di farle da serva». L'uomo si voltò e non vide nessuno. La ragazza allora esclamò: «Quanto è bella la sincerità e quanto è brutta la bugia! Dici di amarmi e basta parlare di un'altra donna per farti voltare». Detto questo, scomparve. Allah l'Altissimo acceca l'occhio del cuore a chi mangia con l'avidità dell'anima inferiore. A un buon parlatore fu detto: «Hai sempre parlato bene, ora ciò che ti manca è di tacere bene». Nella santa casa di Allah, la nobile Kaaba, vi sono tracce dell'amico intimo di Allah, il profeta Ibrahim, e nei nostri cuori vi sono tracce di Allah. La casa ha le sue colonne e il cuore le sue. Quelle della casa sono di pietra, quelle del cuore vengono dalle miniere della luce della conoscenza di Allah. Se ti annoi quando si prolungano le riunioni in cui si lode il Signore, vuol dire che Allah ti odia, perché se Egli ti amasse, 1000 anni nel ricordo di Lui ti sembrerebbero un battito di palpebre. Quando chiedi ad Allah la buona riuscita di un'impresa, mettiti subito al lavoro. Sta nella vita terrena con tutte le tue membra e nella vita futura con il cuore. Se è autentico il bisogno che l'uomo ha di Allah, egli dà a lui un autentico aiuto in eguale misura. Le due cose sono strettamente legate. La celebrità è la briglia del diavolo, e chi afferra la briglia del diavolo difficilmente riesce a smontare dalla sua groppa. Conoscere Allah è uno dei modi più perfetti di servirlo. Chi si sazia di solo pane è ancora affamato, chi è ricco di solo denaro è ancora povero, chi è portato a ricevere dagli altri è sempre bisognoso e chi cerca aiuto prescindendo da Allah resta sempre deluso. L'uomo che meglio conosce Allah è quello che davanti a Lui si sente più debole e perplesso. Quello che vedono gli occhi appartiene alla scienza e quello che vede il cuore appartiene alla certezza. Rispettate il maestro come è vostro dovere rispettare i genitori. I genitori, infatti, sono gli strumenti che Allah ha usato per darvi la vostra vita transitoria, mentre il maestro lo usa per darvi la vostra vita eterna. Nell'uomo consapevole di Allah, la sostanza è migliore dell'apparenza. Nel dotto, apparenza e sostanza si equivalgono. Nell'ignorante, l'apparenza vale più della sostanza. Chi opera in vista del premio, le sue opere sono da lui contate e ridotte in cifre, mentre chi opera per amore di Allah dimentica ogni calcolo. Chi numera le proprie opere sarà ricompensato in base al numero, mentre la ricompensa dei disinteressati, come promette Allah nel sublime Corano, è incalcolabile. Hai raggiunto la perfezione quando sei capace di usare cortesia a quelli che detesti, spendere denaro per chi ti è antipatico, quando accetti per amici persone da cui il tuo cuore rifuggirebbe, sei remissivo con i fratelli in tutto quello che non è contrario alla dottrina. Poche cose sono più brutte dell'ignoranza degli intelligenti, della malattia dei medici e della scontrosità delle persone che amiamo. Se una zanzara si posa sul tuo corpo e incomincia a succhiarti il sangue, non la scacciare, lascia che beva quel sangue che Allah le ha assegnato come rizq. Un giorno un sapiente vide due bambini che litigavano e, intromessosi, chiese a uno di loro: «Di chi sei figlio?» Rispose il bambino: «Ficcanaso!» E il sapiente: «Mi hai dato una lezione, bambino, che Allah ti benedica!» Il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: Chi è generoso con un vecchio, Allah obbligherà qualcuno nella sua vecchiaia a essere generoso con lui. Uno dei doveri dell'uomo consapevole di Allah è quello di non osservare i difetti della gente. Chi prende moglie pensando ad Allah sarà soddisfatto e completo. Il servo di Allah non raggiunge la purezza dell'anima finché rimane in lui una traccia di malevolenza sia verso il nemico, sia verso l'amico, sia verso qualsiasi creatura di Allah. La prova della tua confusione è che ti accompagni con i confusionari e la prova della tua pigrizia è che ti accompagni con gli sfaccendati. La base dell'intelligenza è il silenzio. Il suo aspetto interiore consiste nel nascondere i segreti, il suo aspetto esteriore sta nell'agire secondo la nobile sunna. Per il cuore esiste una sola direzione e quando si volge da quella parte gli è nascosta ogni altra cosa. Chi va verso la gente prima che sia la verità a chiamarvelo si espone alle tentazioni. La povertà ha una sua luce, purché venga tenuta nascosta. Se viene manifestata, se ne va. Chi preferisce ricevere anziché dare, non ispirerà il profumo della povertà. Se ti chiedono cosa vuoi, rispondi quello che vuole Allah l'Altissimo. Il figlio del cuore è preferibile al figlio del corpo. Questo eredita un patrimonio terreno, quello un retaggio invisibile. Ama Allah e ti ameranno gli abitanti delle due terre e del cielo. Obbedisci ai suoi comandamenti e sarai obbedito da uomini e jinn. Si asciugherà il mare per te e comanderai all'aria. O tu che conosci a memoria il sublime Corano, prima di rallegrartene, rifletti se hai agito secondo il Corano, perché in caso contrario ogni lettera del libro ti accuserà. Quando Allah aprirà la serratura della porta del tuo cuore, potrai vedere quali meraviglie, significati e scienze contiene il sublime Corano e ti accorgerai di poter fare a meno di ogni altra lettura, perché il Corano comprende tutto quello che fu mai scritto sulle pagine del creato. Chi recita il sublime Corano, avendo contaminato la sua bocca con menzogne e calunnie, è come se avesse posato il libro sulle immondizie. Quando scegli un fratello, sta con lui in quello che manifesta, non in quello che tiene segreto, perché il segreto è suo, non tuo. Se vi accenna, accennavi, e se te ne parla apertamente, parlane apertamente anche tu. Il segno del peccato che suscita l'ira di Allah è questo. Conferisce al peccatore lo smoderato desiderio delle vanità del mondo. Chi desidera il mondo apre una porta sulla negazione di Allah, perché la ribellione tende alla miscredenza e chiunque passa quella porta ne viene posseduto nella misura in cui è andato avanti nell'amore per le vanità della vita terrena. Le cause di sofferenza sono tre. Hai commesso una colpa, hai perduto una cosa tua, qualcuno ti ha leso nella persona o nell'onore.